24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Inizio a pensare che il segretario del PD sia pirro, noi vinciamo per fare le cose che abbiamo sempre combattuto, abbiamo fatto quasi psichiatrico, siamo diventati il nostro contrario, ci specchiamo in una realtà che non vediamo. Tu ti metti a fare l'eroe, per cosa poi? Per moralizzare il partito, ma che significa moralizzare il partito? I senatori che protestano, loro pensano di fare arrabbiare me, io non mi arrabbio, ho l'impressione che stiano facendo arrabbiare i cittadini. Quella persona non sei più, quella persona non... La scissione sta avvenendo a livello molecolare sui territori, tanti nostri iscritti se ne vanno perché non si riconoscono in questo Partito Democratico. Presidente, sta arrivando una brutta corrente. Anche gli altri esponenti della tua corrente sono chiacchierati. Perché ti circondi di certa gente? La guerra si fa con i soldati che si hanno. Gianni Cuperlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Senta, a Roma Renzi ha scelto come commissario per rifare il partito Matteo Orfini. È sufficiente per rifondare la politica del PD a Roma? Ma probabilmente no, Matteo Orfini è un giovane di esperienza, come si dice. Oggi è anche il presidente dell'Assemblea. No, questo sì, ma volevo sapere se ha scelto bene, secondo lei, Renzi. Ma guardi, io sono un riflesso condizionato, lo confesso, sono ormai un vecchio funzionario di partito. Se di fronte all'enormità dei fatti romani il segretario del mio partito indica un commissario nella persona di Orfini, io rispondo benissimo. Ci si rimbocca le maniche e si dà una mano a Matteo Orfini. Dopodiché penso che né Matteo Orfini né nessun altro avrebbe la forza da solo di affrontare e di sbrogliare una matassa come quella che abbiamo scoperto. Ecco, ma... Però c'è bisogno anche dello sforzo e della solidarietà di tutti. Certo, Rutelli, l'ex sindaco di Roma, dice che a Roma bisogna fare una giunta con i 5 Stelle per ricominciare, tanto per dire una cosa concreta. Lei è d'accordo? No? Ma anche su questo in linea di massima sì, nel senso che di fronte alla, ripeto, enormità dei fatti, l'atteggiamento, il riflesso che dice cerchiamo di mettere intorno al tavolo o comunque di far lavorare assieme le forze sane per bene di questa città, io lo ritengo un modo di ragionare sostanzialmente corretto. Ma è un modo... Poi mi pare che da parte del Movimento 5 Stelle non ci sia uno slancio in questa direzione. No. Ecco, onorevole Cuperlo, ma intanto questo servirebbe per evitare il rischio di sciogliere il comune per mafia oppure è una strada percorribile, forse violenta, ma anche definitiva? Ma io non so dirle se esistono in questo momento i presupposti di carattere legale, giuridico per uno scioglimento del comune. Credo che il sindaco Ignazio Marino... dopo settimane, mesi, perché anche qui togliendoci un po' il velo dell'ipocrisia, diciamoci la verità, il sindaco è stato al centro di una polemica molto aspra anche dentro il suo partito nei mesi passati ed improvviso queste polemiche giustamente lasciano il posto al fatto che dall'inchiesta sembra emergere una situazione nella quale questa amministrazione, questo sindaco ha rappresentato un argine a quel sistema del malaffare. Senta, a questo punto è bene che il sindaco, se è nella condizione di farlo, rilanci l'azione amministrativa. Io penso Vabbè, che rifaccia diciamo una nuova giunta completamente diversa, diciamo, questo è il punto. Ecco, mi fa dire solo una cosa sulla nuova giunta, per l'amor del cielo, Ignazio Marino ha tutta la responsabilità e l'autonomia per scegliere al meglio. Forse questo è il momento in cui anche alcune scelte di carattere, come si dice in questi casi, simbolico, potrebbero aiutare. Coinvolgere alcune personalità, non faccio nomi, non sono in grado di farli, però capito a che cosa mi riferisco, alcune figure, alcune personalità di una specchiata etica e moralità e condotta individuale e pubblica potrebbero dare il segno di una ripartenza. Senta, onorevole Cuperlo, Veltroni su Repubblica ha scritto l'altro giorno dicendo che quando la politica si riduce al potere delle tessere finisce così, è così? Beh, direi di sì. Poi dovremmo chiederci quando comincia questa deriva. Ecco. Quando comincia questa deriva? Perché non è mai responsabile nessuno di questa deriva. Ma vede, quando comincia questa deriva, a me è tornata in mente, l'ho citato l'altro giorno, una vecchia scena che lei sicuramente ricorderà di quel capolavoro di Francesco Rosi che aveva le mani sulla città. il film è del 1963 e la sceneggiatura fu scritta da Rosa insieme a Raffaele Lacapri, e lì c'è un dialogo tra il candidato sindaco De Angelis e un candidato al consiglio comunale che vuole ritirare la sua candidatura perché rifiuta di stare nella stessa lista con un palazzinaro corrotto, e quel dialogo del 1963 è esattamente il tema di oggi. Ecco. Il tema qual è? Dov'è? Qual è il confine, la linea di demarcazione tra la conquista e l'esercizio del potere e il controllo del consenso? Ecco, mette fine, insomma, un vecchio dibattito. No? Senta, onorevole Cuperlo, per stare sull'oggi, Marianna Madia nel 2013, proprio a proposito di dialoghi, prima delle primarie, aveva detto, senta qua quello che ha detto. Io ho visto, Fabrizio, non ho paura a dirlo, delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio. Ecco, ovviamente è una valutazione politica, però non è capitato nulla, mi sembra molto molto forte quello che diceva. Perché secondo lei? Perché c'è un riflesso condizionato di cui in tanti siamo stati vittime, non solo a Roma ma anche altrove, che tende a nascondere i problemi fino a quando non c'è qualcuno che te li mette di fronte in modo, come dire, inappellabile. Ha presente quella formula che abbiamo ascoltato, lo dico in modo autocritico, è la mia, non è una critica rivolta ad altri solamente, in questi anni, non c'è una rilevanza penale, la magistratura faccia il suo corso, ma noi riteniamo che il garantismo eccetera eccetera eccetera. C'è un punto di fondo che riguarda la responsabilità della politica. La magistratura faccia la sua attività, svolga il suo lavoro. Ma la politica e la responsabilità dovrebbe averla prima. Assolutamente sì. Quello che dice la Madia mi sembra di una violenza, di una chiarezza, di una semplicità limpida proprio. Potrei aggiungere una battuta. Alle cosiddette parlamentarie, le primarie fatte in pochi giorni a fine anno 2012 per scegliere i candidati nell'ordine successivo della lista, il candidato in assoluto più votato a livello nazionale in quelle parlamentarie fu Franco Antonio Genovese, deputato di Messina, oggi credo autosospeso per le inchieste che lo hanno coinvolto e anche la richiesta poi eseguita di arresto. E di fronte a questo non è un problema di garantismo o meno, è il problema Quindi lei è favorevole o contrario alle primarie? Si può fare una valutazione o no? Io penso che le primarie intanto chiudo questo ragionamento. Sì. Io penso che la politica abbia delle colossali responsabilità nell'aver passato l'asticella, certo, la soglia della tolleranza rispetto a comportamenti che erano evidentemente, anche se non di rilevanza penale, di assoluta rilevanza politica sul versante del malcostume. Dopodiché le primarie sono per noi uno strumento formidabile di partecipazione, però attenzione, vediamo di introdurre anche lì dei regolamenti più stringenti, delle logiche più ferree anche nel modo di controllare lo svolgimento di quelle consultazioni. Senta, altrimenti rischiamo di tradurre nelle primarie le patologie delle preferenze. Certo, ecco, non appunto, preferenze sì o preferenze no? Perché sembra si è rovesciato il mondo. Prima le preferenze erano lo strumento della corruzione, poi sono lo strumento della libertà. Chi le difendeva le attaccava, chi le attacca le difende, non è chiaro. Ma vede, è difficile in un paese come questo dire che le preferenze sono il male assoluto, perché milioni di cittadini votano con il sistema delle preferenze. Certo. Noi con le preferenze abbiamo eletto i parlamentari europei, con le preferenze eleggiamo i consiglieri regionali. Io penso che se ragioniamo della legge elettorale che oggi è in discussione al Senato, vale quello che abbiamo detto nei mesi passati. Abbiamo detto no al sistema delle liste bloccate, che sono assolutamente irricevibili per le ragioni note, perché sottraggono ai cittadini il diritto di conoscere e scegliere il proprio rappresentante. Continuo a pensare che la soluzione di gran lunga ottimale per un paese come il nostro e per i problemi che abbiamo sia quella del collegio uninominale. Senta, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, onorevole Cupero, parliamo di Standard & Poor's, che ha declassato l'Italia, ma è credibile un'agenzia sospettata di aggiottaggio? No. Quindi non conta quello che dice. Ma non so se conta o non conta, conta nella però non è credibile, io penso che adesso, come lei sa, i bancali delle librerie si sono riempiti di titoli della saggistica dedicati a questa crisi economica. Esatto. E molti hanno scritto cose illuminanti sulle responsabilità di queste agenzie di rating e sui loro duplici e molteplici interessi. Quindi francamente, che sia un'agenzia di rating a dare il giudizio sulla tenuto meno del debito pubblico del nostro paese. Però la Merkel dice invece, e che non è un'agenzia di rating, dice che l'Italia deve fare di più. Ecco, ma con questo ditino non ha un po' stufato la Merkel? Perché a casa sua non è che vada proprio tutto bene. Beh, in questo caso nella sua domanda è presente la risposta, no? Da bravo giornalista, quindi io potrei dire che sono d'accordo con lei. La Germania certo che gode dei benefici della moneta unica per una serie di ragioni, ha un surplus commerciale che tutti conoscono, ha goduto di un'esportazione vantaggiosa nell'area dell'Eurozona, dopodiché adesso ha il problema anche la Germania di dove esportare le sue merci. La domanda interna è molto bassa, le grandi riforme del modello tedesco vorrei discuterle anche nel merito, perché forse i mini jobs, i salari bassi non vanno nella direzione che dovremmo imitare, e se la Germania viene considerata oggi la locomotiva d'Europa, beh, vorrei far presente una locomotiva ferma che va piuttosto alle valle, ecco, ma dato che si riapre adesso più forte che mai la questione in Europa, diciamo il contenzioso, il problema del rapporto con l'Europa, Renzi secondo lei cosa deve fare? Deve sforare il 3% come fanno i francesi e infischiarsene oppure no? Ma Renzi deve fare quello che ha detto che avrebbe fatto, deve porre all'Europa il tema che la strategia che l'Europa ha seguito fin qui semplicemente non funziona. Se la ricorda quella storiella che ci faceva ridere dei ragazzini, c'è un pazzo, dice la radio, che va in contromano in autostrada, quello accende la radio, dice no, non è uno, sono migliaia, perché il pazzo è lui e non se ne rende conto. Una parte importante del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, ora il Giappone ha avuto un rallentamento, ma per una fase anche il Giappone, hanno scelto una politica diversa da quella dell'Europa per reagire a questa crisi. Politica monetaria espansiva, iniezione corposa di liquidità e soprattutto investimenti pubblici. Ecco, senta, Renzi deve andare in Europa e dire dove sono i soldi dalla crisi per fare investimenti, liberare risorse per mettere in moto l'economia. Onorevole Cooper, anche perché mi permette solo una cosa, Minoli, una battuta, anche perché altrimenti l'alternativa logica è ritenere che soltanto consumi interni, investimenti privati, d'accordo, ed export possano salvare questo paese, ma non è così. Non è così. Ecco, a proposito di investimenti, Juncker ha promesso questi 300 miliardi di investimenti, adesso si vede che 21. Questi miliardi sono 20. Qualcuno dice che se uno normale parlasse in pubblico di un moltiplicatore di cui parla Juncker, che per 20 miliardi ne produce 300, dovrebbe essere ricoverato. È d'accordo oppure no? Sì, adesso io non sono un economista e non ho un master alla Bocconi, però mi sembra che anche senza essere un economista. Ma Mario Secchi assentiva e quindi fianco a me diceva di sì. Che questo ragionamento, speriamo. Ecco. Ah, lo saluto. Questo ragionamento mi sembra assolutamente fondato, anche perché noi dobbiamo cominciare a prendere atto che non possiamo ingannare centinaia di milioni di cittadini europei. Se si dice che si fa un piano straordinario di investimenti, appunto, 300, quello non c'è, perché sono 20 invece che 20. 300. Ma intanto lui ha protetto tutte le multinazionali per fare l'evasione fiscale in Lussemburgo. Dovrebbe dimettersi Juncker? Beh, ci dovrebbe essere un'inchiesta, un chiarimento di fondo. Ma l'inchiesta c'è già stata. Ma io penso che ci sia una responsabilità abbastanza evidente da questo punto di vista, e non so se il profilo e la biografia di Juncker siano i requisiti migliori per guidare l'Europa in questa fase drammatica della Senta, onorevole Cooperlo, D'Alema, che è il suo antico mentore, al Corriere della Sera... Ecco, mi mancava una domanda. Ci voleva, no? Per fortuna se l'aspettava. No. D'Alema ha detto, ho detto antico mentore, non ho detto mica altro, non è un insulto. No, ha detto, è tornando al... a più Stato e meno mercato che si può salvare l'Italia. Ma non è che si è svegliato un po' tardi? Beh, in quell'intervista a cui lei fa riferimento io ho colto anche un elemento di autocritica rispetto alla sinistra degli leggero, anni 90. Sì, un leggero come parliamo di una, una leggera autocritica, parliamo di una personalità che come che come fa lei, fatica insomma a farla, ecco, l'autocritica sì, non è un professionista, diciamo. in quel senso, mi ha colpito, ma io credo che abbia ragione per una serie di motivi. Abbiamo accennato a qualche lettura, ma insomma il libro di Mariana Mazzuccato sullo Stato innovatore, che poi nel titolo originale il libro è scritto in inglese è lo Stato imprenditore, va esattamente in questa direzione. Non si esce da una crisi di queste proporzioni, di queste dimensioni senza una nuova idea, persino una nuova filosofia dell'intervento. Insomma, bisogna fare un nuovo IRI, parliamoci chiaro, semplice, sì o no? Guardi, semplicemente bisognerebbe ritornare ai fondamenti keynesiani. Quel grande economista, che non definirei un uomo propriamente di sinistra, ma è stato il più grande economista del secolo passato, diceva che nelle grandi crisi, lui si riferiva a quella degli anni 30, compito dello Stato, dei governi, non è fare un po' meglio, un po' peggio quello che fanno gli altri, ma è fare quello che nessuno fa. Appunto. E oggi quello che nessuno fa è investimento. E quindi l'Ilva va salvata con un investimento di Stato? Io penso che la proposta messa in campo dal governo sull'Ilva vada nell'unica direzione soluzione in questo momento possibile. E si apre una strada però lì, naturalmente. Ma perché non credo che ci sia un acquirente straniero, ci sono grandi gruppi siderurgici naturalmente sulla scena globale, ma non credo che ci sia qualcuno disposto a rilevare adesso, a costi, come dire, legati all'operazione di bonifica del territorio e a tutti gli investimenti necessari, quella struttura, quell'impresa. Credo che la proposta del governo vada nella direzione di dire: il governo, lo Stato, faccia la sua parte, risaniamo, bonifichiamo, rimettiamo sul mercato quel prodotto e vedremo di trarne il massimo del beneficio possibile. D'altra parte, negli Stati Uniti l'amministrazione Obama ha fatto qualcosa. Onorevole Cooper, abbiamo una telefonata. Stefano da Roma. Stefano, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dica. Io, ecco, tornando in merito a quello che diceva Cooper sulle parlamentarie, sì, sulla scelta. Sì, dei, dica. Sì. La domanda. Volevo dire questo. No, più che una domanda è un'affermazione, diciamo, dall'alto ormai dei miei 61 anni. Cioè, secondo me, è qualunque meccanismo noi possiamo inventare per selezionare dei politici corretti, va bene, sbatte contro il fatto che gli elettori spesso, va bene, purtroppo non sono corretti loro. Cioè, vabbè, lei dà la colpa agli elettori. Sì, vabbè, noi siamo un popolo facilmente corruttibile, vabbè, e quindi i nostri rappresentanti sono quelli lì. Grazie, grazie. Così. Vabbè, questa è ancora un'altra versione dei fatti. È l'idea che alcuni sostengono, che sostanzialmente la classe politica, la classe esprime il paese, esprime il paese reale. Senta, anche su questo c'è una letteratura sì, molto sì, ampia. Il PD è diviso su molte cose, quasi su tutto. Ecco, sul Jobs Act, ci sarà una scissione, secondo lei? No, penso e spero di no. E io personalmente mi batterei. Lei ha mai pensato di uscire dal partito? No, sinceramente no, come dicevano gli antichi. Ha detto un sinceramente talmente timido. Che... No, ma sa perché? Lo dico perché mi preoccupa un po' il fatto, non mi riferisco al modo in cui lei mi pone la questione, mi riferisco un po' al modo in cui se ne parla, no? Sì. Se ne parla con un eccesso di leggerezza. Io glielo dico così, sono abbastanza convinto, invece anzi sono molto convinto, che un'eventuale scissione, cioè un fallimento, diciamoci la verità, del progetto del PD condannerebbe la sinistra italiana ad una lunga attraversata del famoso deserto e a una fase di grande incertezza sul suo avvenire, e vorrei evitarlo. Senta, si voterà in primavera? È possibile, secondo me. A quanto la dà? non sono come si chiama? Vabbè, è una scommessa, un bootmaker. C'è Mario Secchi, gli vuol fare una domanda, poi intanto pensi, ecco, a quanto la dà. Allora, buongiorno Mario. Buongiorno. Allora, molto rapido. Il Roma Capitale partecipa direttamente a 19 società, una mutua assicuratrice, due aziende speciali, svariate fondazioni. Ma perché non le dismette? Cioè, l'origine di tutto lo scandalo è questo. Perché partecipa in maniera diretta all'economia, anziché all'amministrazione. Penso che sia la linea che il governo per un verso, quando parla di riduzione della presenza nelle municipalizzate, anzi la soppressione da 8.000 a 1.000, ma credo che anche il Comune di Roma voglia andare esattamente in questa direzione. Vabbè, speriamo. No, io do il fatturato di questa cosa a conoscenza degli ascoltatori. 7 miliardi di euro, certo. Ma scusate... Ma dai, è fuori dal mondo. Pietrangelo? Buongiorno, sono Pietrangelo Buttafuoco. Buongiorno. Buongiorno. Ho appena finito di leggere l'editoriale di Battista oggi sul Corriere, quindi vorrei tornare sulla teoria delle singole mele marce a Roma. Ci sono due assessori della Giunta Marino coinvolti, poi c'è il presidente del Consiglio Comunale che comunque rappresenta la maggioranza politica, poi una cooperativa che viene accusata nell'inchiesta di avere metodi mafiosi, che è riconducibile a questa maggioranza politica. Se il PD ha immediatamente commissariato il partito, non ritiene che sia necessaria anche una cura dolorosa, come dice Battista, riguardo a un rispetto verso le istituzioni? Insomma, Marino, onorevole Cooperlo, è in grado di reggere ancora la situazione? Ma io condivido, non ho letto, confesso, il pezzo di Battista, ho il Corriere sotto gli occhi, ma avevo letto l'editoriale di Cassese e poi siete arrivati voi. Però il titolo che dice la sinistra non può autoassolversi è assolutamente, come dire, veritiero e non lo si può smentire. Quanto alla domanda di Buttafuoco su Marino, io insisto, ripeto, Marino... Marino è stato descritto come l'uomo che ha fatto argine a questo sistema nel corso di questi mesi, e questo ha prodotto anche notevoli polemiche intorno alla sua figura e alla sua azione amministrativa. Io mi auguro che sia nella condizione che ce la possa fare, di farcela, per l'interesse della città, perché credo che altrimenti noi... Scusa, ma argine con due assessori suoi però coinvolti, sì, con il Presidente del Consiglio suo coinvolto, con i rapporti con le cooperative suoi. Ma che naturalmente parliamo di assessori che non saranno più assessori, parliamo di un Presidente del Consiglio che non è già più Presidente del Consiglio, parliamo di una svolta radicale che è necessario mettere in campo. Alla fine ci ha pensato a quanto lo dà le elezioni a marzo, che dobbiamo chiudere, no, primavera diciamo. Così diciamo, lo mettiamo insieme a Marino. 50-50. Grazie. Grazie, grazie onorevole Cooper. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Confessione reporter è il fortunato titolo del programma di Stella Pende, che lo scorso anno ha avuto un grande successo di pubblico e di critica. Ritorna con 6 puntate che promettono molto anche quest'anno, da questa sera per 6 lunedì su Rete 4. Ecco, Stella Pende, buongiorno. Tra le varie puntate annunciate, sei andata a cercare gli amici di Papa Francesco a Buenos Aires. Cosa hai scoperto? Guarda, ho fatto un viaggio a Buenos Aires per scoprire la vita argentina di padre Bergoglio. E cosa hai scoperto? E ho incontrato gli amici e tutti questi suoi fratelli della famiglia, di quella che si era scelta lui, no? Io ho scoperto degli esseri incredibili, dai preti di strada che sono veramente dei combattenti di Gesù, che lui ha messo in prima linea nelle favelas, ai cartoneros, gli uomini dei rifiuti a cui lui ha dato dignità e sindacato, ai suoi amici giornalisti, alla sua pasticcera. Ma diciamo che dai racconti di tutti questi esseri incredibili viene fuori un uomo che ha un unico pensiero, che sono i poveri, la cura degli altri, il perdono, cioè i veri valori del Vangelo, che per lui e con lui di questi tempi diventa davvero un progetto rivoluzionario. Senti, ma tra le altre puntate, quali ci consigli di non mancare assolutamente, a parte ovviamente tutte, però una che hai amato di più? Beh, sono tutte bellissime. Lo so, immaginavo, ma una, dimmene una in più. Vabbè, io ho un debole per quello che va in onda stasera, questa Regina Catrambone, no? Che è una giovanissima donna del sud che vive a Malta, perché ha sposato questo Christopher, che è un ricco americanone, che navigando con la sua barca continua a trovare giacche, pigiamini che ondeggiano in mezzo alle onde, e capisce che sono vestiti di immigrati che non ce l'hanno fatta. Allora a un certo punto dice: basta, adesso ci penso io. Va in America, si compra una nave di 40 metri e anche due droni, e li va a raccogliere lei, sti poveracci delle carrette del mare. No? E quanti ne ha salvati? 3.000 persone. 3.000 persone, accidenti. Sì, incredibile, eh? Ha fatto Mare Nostrum da sola. Esatto, infatti è molto preoccupata adesso, perché lei aveva questa connection con Mare Nostrum, certo. No? E quindi adesso Mare Nostrum... Adesso c'è l'intervento europeo. Gli toccherà raccoglierli tutti a lei, poveraccia. Senti, ma più in generale, qual è il filo conduttore di questo ciclo di trasmissione di quest'anno? Il filo conduttore è un attore, come dicevo, di cui sentiamo molto parlare, che si chiama Italiano, perché io mi sono rotta le scatole di sentir parlare mai dell'Italia, no? E quindi perché dovunque vado nel mondo trovo degli esseri, degli italiani meravigliosi, che si occupano degli altri e che danno la loro vita agli altri. E allora in ogni puntata, che saranno tutte all'estero, saranno a Mogadiscio, saranno in India, saranno dovunque, c'è un italiano che fa grande l'Italia, all'estero e qui, e nella sua terra. Senti, vabbè, quindi ti facciamo tanti auguri. Tu vuoi fare una domanda, Mario, a Stella? Sì. Quale sarà... Ciao, buongiorno. E quale sarà il tuo prossimo progetto in questa serie? Un'anticipazione. Un'anticipazione. Oltre a quella che hai dato appena adesso. Oltre a quello che ho dato, il mio prossimo? Sì. Il mio prossimo progetto nella trasmissione o prossima? Dai, prossima. Nella trasmissione, dai. Voglio fare un'inchiesta, un docufilm su questa ragazza incredibile che si chiama Lakshmi Pahor, che è in India e che è sta- stata la prima in India ad andare in televisione con la sua faccia svetriolata da un signore di 46 anni che ha fatto passare una legge per cui chiunque compra l'acido per i pavimenti per sfigurare le belle ragazze da adesso in poi deve dare impronte digitali e documenti. Stella, siamo in chiusura. C'è Pietrangelo, una domanda velocissima. Curiosità, ma uno che parli male del Papa in Argentina si trova? No, ti giuro, sai che è una cosa incredibile, non ne ho incontrato uno. Vabbè, perché Pietrangelo non era in Argentina. Grazie Stella, grazie a tutti. Un consiglio, quindi questa sera su Rete 4, lì c'è sicuramente servizio pubblico, cioè qualità e professionalità. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché. L'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Allora Pietrangelo? E allora è successo che oggi la metropolitana era vuota. Si sono chiuse le porte, si è avviata e quando dall'altoparlante l'annuncio ha dettato l'approssimarsi della nuova fermata, il convoglio ha proseguito nel puro cielo, tutto chiarore blu di aria, nuvole, giorno. E tutte le nostalgie si sono date convegno e a percorrerlo tutto, quel treno, erano attraversare malinconie, rimpianti, dimenticanze, dolcezze, fino ad avvertire i brividi sulle scale mobili dell'arrivo di essere arrivati dove non si torna. E c'era un professore lì appollaiato a dirmi, ecco, è l'eterno stare dell'indietreggiare. Lontano da me. Ora so che l'eterno stare dell'indietreggiare. Ma tu hai capito? Io ho capito, mi è venuto mal di testa. Poesia. Ma tu lo sai che a me viene mal di testa. Lo so, e vai con le tue bolle che ci riportano alla realtà. È troppa poesia, fa male. Nutella, miele, disastro. Veramente cicuta. Aiuto. Vai. In der Furgen und ach du! Dentro in der cacche marciamo po po po. No. Ma è ci vogliamo. Ve le ricordate? Sturmtruppen. Vabbè, parliamo un po' di Germania, la leghiamo a, diciamo, alla contemporaneità. Allora, il prezzo del petrolio è stato appena fissato ai minimi da 5 anni. Il Brent è a $68.03 al barile, scenderà ancora nel 2015. Ho visto un po' di proiezioni dei futures, lo danno a quota 65, ma fare previsioni, come sapete, è molto difficile. Quindi molto difficile. Io consiglio prudenza. In questo comunque clima da deflazione acuta per l'Europa, oggi ci sarà una riunione a Bruxelles dei ministri delle finanze. Allora, entriamo nel punto. Merkel ha detto che Francia e Italia non fanno i compiti a casa. Quello che abbiamo detto prima. E sì. Poi ha accusato Putin di creare problemi, che sarà pur vero. Io ho solo una domanda, Giovanni, poi voi mi rispondete. I tedeschi, non è che insomma nella storia li hanno azzeccate tutte, quindi forse non è che non sbagliano mai niente. Io, insomma, consiglio prudenza, non lo so, anche in questo caso, vedete voi. Sturm und Drang. Sturm und Drang. Tedesco. Sturmtruppen. Salamino. Salamini di Resistenze e la nuova Tina Anselmi e la nuova Nilde Iotti. Ed è probabilmente iscritta all'AMPI, però non l'associazione, purtroppo non l'Associazione Nazionale dei Paracadutisti, bensì quella lì, quella dei buoni, dei partigiani. Insomma, Maria Elena Boschi, che è già stata Madonnina nel presepe, già catechista, fotografata, raccontata, celebrata, ha detto in polemica con Matteo Salvini di temere la deriva fascista. La deriva? Fascista. Cioè? La deriva fascista. Non ho capito niente. La teme. Che ha cosa? Ha paura la signora. Ha Parla paura. Piano. Parla piano. E allora, parlando piano, siccome la pacificazione dovrà pure arrivare. Quando? E siccome è grande l'anelito di democrazia, io in dose omeopatiche. omeopatiche, indosso omeopatiche. Vorrei qui sollevare dall'ansia la soave, la dolcissima, la benissima Marielle Boschi, e a Marielle Boschi quindi dare la prima dose con... Ciao biondina, ci rivedremo. Ciao biondina, ci rivedremo, un bel giorno ritorneremo. Allora, seconda dose... Le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera. Più bene, mia, grandissima canzone stamattina firmata da Mario Castellacci, e infine alla Maria Elena Boschi dedicare Disperato amore Z0 Alfa. Oh. Ti senti solo su questa strada e pensi al sogno che avevi un tempo, è tanto peso, tanto. E finalmente ecco un giusto dosaggio di deriva fascista. Fascista. Ah. Vabbè. Beh, oggi, oggi è il raggio. È festa. Vabbè, mi sa che la Boschi le conveniva venire a fare faccia a faccia. Sì. Perché adesso tocca. Ne usciva meglio. Adesso tocca la Tardelli. Attenzione, io sento odor di incidente diplomatico. Vengo al punto, ragazzi. Esiste il Censis e fin qua ci siamo. Il prestigioso istituto di ricerche privato, e tra i fondatori c'è Giuseppe De Rita, sociologo. Uno dei suoi 8 figli è stato nominato segretario generale e direttore generale del Censis. È laureato in ingegneria e ha già avuto esperienze importanti. Insomma, il curriculum c'è, ma non per il ministro Boschi, che dice: con questa scelta diamo un messaggio non bello alle persone competenti, che spesso credono che conti di più chi conosci rispetto a cosa conosci. No, dico, ma questa ministra è una burlona o stava facendo una seduta di autocoscienza? Ministro delle riforme sulla base di una carriera da avvocato in erba, e tra l'altro non credo che il suo curriculum sia stato valutato da nessun consiglio direttivo. Un consiglio da amica, ministro Boschi. Poche parole ma buone. Ministro Boschi, era meglio venire a fare faccia a faccia con me, che questi sono cattivi. No, cioè, non è poi vero. Dice a domanda risponde, a domanda risponde. Vai Mario con la bolla. Vai. Grande pezzo, quanto mi piace, eh? Have a nice day, sentilo ancora un po'. Allora, questo è uno Stereophonics per intenderci. Allora, quello immaginato nei colloqui dell'ONU sul cambiamento climatico è il 2050, che sarà un anno molto molto interessante, e se ne discute a Lima. E sai che cosa succederà entro il 2050 se passano certe ipotesi? Che tutte le aziende energetiche di oggi, pensa Exxon, Shell, BP, Eni e così via, dovranno produrre emissione zero, il che significa che petrolio e carbone non potranno più essere estratti di fatto come avviene oggi. Questo significa un cambiamento incredibile nel modo di produzione, dovranno trasformarsi completamente, insomma ipotizzano la decarbonizzazione entro il 2050. È vicino, eh? Sono 30 anni. No, uno pensa, non che, non, uno pensa che non arriva, poi arriva, arriva, arriva. Arriva. Vedrete. Intanto, canzoniere. Veggio negli occhi della donna mia un lume pien di spiriti d'amore che porta uno piacer nuovo nel core, sicché vi desta d'allegrezza vita. 800 24 00 24, l'ho rapito, 349 238 6666, l'SMS se qualcuno è il liceo se che qualcuno serve. Indovinerà. Pubblicità. Questo è un grande pezzo, senti, eh? E allora, questi sono gli Alan Parsons Project, questo si chiamava Aerobo, era tutto un album dedicato alla fantascienza, all'intelligenza artificiale. Tu sai che mi piace la musica, no? Ti piace tutto? No, tutto no, la musica. E insomma, io sto sempre nel 2050, va bene? Perché entro questa data, quindi 2050 decarbonizzazione, abbiamo visto, basta carbone. 2050 invece, entro questa data, gli esperti di intelligenza artificiale immaginano che ci sia un robot in grado di emulare l'intelligenza umana. È in corso un dibattito molto interessante sulla automazione in generale, i rischi per l'economia, per il lavoro e perfino per la specie umana. È uscito un libro per Oxford University Press, il titolo è Super Intelligence, l'autore è un esperto del settore, Nick Bostrom, prevede il rischio dell'estinzione umana a causa del robot. Se non avete voglia di leggere, io vi consiglio di guardare un film di qualche anno fa, ma molto bello. Sentite? Non ho ucciso il dottor Lenning. Perché ti nascondevi sul luogo del delitto? Non ho ucciso il dottor Lenning! Si può parlare di omicidio solo quando un essere umano ne uccide un altro. Non mi dirà che proprio lei suggerisce di trattare questo robot come un umano. Male. Questo era Asimov, certo. Comunque. Salamino! La musica! A Mario piace la musica, musica. E io propongo la musica. 12 minuti di applausi per il Corriere della Sera. Secondo il Corriere della Sera, 12 minuti di applausi. Ma per 13, il Corriere o secondo? 13 secondo Repubblica. Pietro Grasso, presidente del Senato, presente alla prima del Fidelio al Teatro della Scala, ne avrà contati almeno 25 di ovazione perché la rappresentazione, da fine intenditore qual è, svelava un anelito di legalità. Insomma, fiato alle trombe! Questi sono i commenti a caldo che abbiamo raccolto nel foyer tra i VIP intenditori quanto Grasso. C'erano Valeria Marini, Corrado Passera, Christine Lagarde, tutti entusiasti per la scelta di piegare un capolavoro qual è Fidelio, un monumento alla libertà contro il giacobinismo della rivoluzione francese, nell'esatto contrario. Una specie di happening fu da centro sociale. Caro Mario, con le zecche offerte assieme alle tartine. Le zecche o le zeppe? Le zecche. Ma era in jeans o no? I centri sociali. I centri sociali? Cioè. Sì, messi con le tartine per fare andare in visibilio i ricchi citrulli, bobò, quei borghesi bohemien. Insomma, per fortuna c'è Paolo Isotta che mette a posto tutto e dice... Cosa ha detto? Ha detto, quello tutti lì, in piedi. Il direttore, crede di saperla lunga, ma la mezza cultura è peggio dell'ignoranza e della regia, ha detto... che la regia straniera non vale la peggiore italiana. In scena poi, e qua si rivela la sapienza di Ciuccio, della regista, c'erano l'asse da stiro, c'erano i bidoni, c'erano i gens, no, c'era pure il mocio, per cui alla musica dedichiamo questo inno al mocio. A cosa pensi? Non trovo un mocio. Qual è il tuo impegno? Devo lavare a terra. Ed il tuo tempo? Ma che ci vorrà un'oretta? Che risultati hai? Non trovo un mocio nessuno. Che risultati hai? Te ne sei niente. Rido di me. Se ride. Daniele da Roma, ha indovinato il canzoniere? Sì, è Guido Cavalcanti, ovviamente. No? Giusto! Ovviamente. Signora, che fa a Roma di bello? Io a Roma adesso, diciamo, niente, faccio la casalinga con un po' di influenza, ma ho insegnato per 40 anni. È stato allora padre. Cavalcanti è il suo pane. Insieme a tanti altri. Allora... Perché poi ci ho provato altre volte, ma qualcuno è arrivato anche prima di me. Insomma. Oggi è arrivata lei prima. Bene. Comunque bene. Io me li non ricordo. Tutto il male viene per nuocere, la sua malattia. Certo. Io me li ricordo sempre tutti. Sempre con molto piacere. Grazie signora, auguri, auguri. A lei. Grazie. Professore, abbiamo il telefono, il professor Simonelli, il professore esperto. Una cosa. Un augurio veloce a tutte le concettine. Oggi è l'Immacolata Concezione. Bene, professore, auguri, faccia gli auguri anche lei. Ma non sono concettina. No, vabbè, ma faccio. non sono concettina, però avevo indovinato anch'io Cavalcanti. Ah, l'avevo indovinato. Senta, professore, allora, dov'era il canone in questa settimana? Senta, aspetti, prima di rispondere, sì, le dico, c'è arrivato adesso un SMS che dice: dopo 3.000 anni la RAI ha pensato di modificare l'Odissea, e qui c'era il canone, è d'accordo? Allora, no, l'Odissea si può anche modificare, ma bisogna saperla modificare. Questa è un'Odissea proprio bruttina. Ah, si può modificare, sì. Si può modificare, si può fare più. Qui noi sappiamo, lì c'è un grande esperto. C'è un signore che si chiamava Carmelo Bene, che ha modificato l'Amleto, ha modificato tutto quello che poteva modificare. Però bisogna essere Carmelo Bene, se no si fanno dei pasticci. E allora questo canone dove allora provate un po' a sentire sta canzoncina. Sì. Guarda San Francesco che va bel bello e non ha niente nel suo fardello. Saluta il vento, buongiorno amico, e dice al fuoco: sei mio fratello. E allora? Ora scommetto che neanche lì i grandi esperti di musica che lei ha lì con sé sanno chi è l'autore di questa canzone, e cantata da Sergio Endrè. È il grande Vinicius de Moraes. Ah. Sì. Allora, perché San Francesco? Perché stasera c'è Francesco di Emiliana Cavalli. Certo. E qui c'è la storia del canone, perché la storia comincia nel 66 con un film di Emiliana Cavalli prodotto e distribuito dalla RAI. Quindi comincia la grande stagione della RAI produttrice di cinema, che porterà la RAI a vincere la Palma d'Oro e tutto quello che si può vincere. Bei tempi. Allora la Cavani ci ritorna per la terza volta dopo San Francesco di Lucaster, dopo quello di Mickey Rourke, ci ritorna la terza volta, e io vorrei fare, come si dice, non gli auguri in bocca al lupo, come si dice, perché avete notato, vanno maluccio le fiction storiche. Mentre vanno bene le fiction di attualità, anche le più impervie, anche le più complesse, quelle in costume vanno maluccio. Quali sono le più impervie e le più complesse? Beh, Ambrosoli, insomma, quella di Ambrosoli, la seconda. Ma insomma, 15-16, sì, bene, benino, diciamo. Insomma, una storia mica facile, la seconda puntata con tutti gli intrighi. Ha battuto Romeo e Giulietta. Sì. Secondo me la storia di Ambrosoli che abbiamo raccontato noi alla radio era più bella. Sì. Tra l'altro però riprende il coup de théâtre di Andreotti, vabbè. D'accordo. Però, insomma, va male Romeo e Giulietta, va male l'Odissea, speriamo che vada bene Francesco, ce l'auguriamo. Vabbè. Però posso fare una tirata d'orecchi affettuosa alla grande Rai 5? Ieri sera ha sbagliato tutto, perché non si può mettere due grandi eventi uno di seguito all'altro. Non si può fare il Fidelio della Scala e poi l'Ambrogio di Dario Fo, per la gioia sempre del suo amico, che è lì. Certo. Perché insomma alla fine si annullano, perché se io faccio un esempio, vado a pranzo da Bocuse e la sera non posso andare a cena da Vissani. Se non ha mangiato per una settimana, può darsi. Allora, due eventi così, mi ha spiegato una volta un grande intenditore di televisione, Bruno Gambarotta, che la televisione è fatta anche di appetito. Insomma, se tu sazi il telespettatore dopo che è sazio, insomma, farà qualcosa. Professore, siamo in finale. Allora, niente, fatto il Fidelio, si poteva rinviare. Vabbè, hanno sbagliato la programmazione, glielo diremo, le abbiamo fatto tanti, tanti applausi. Abbiamo un file? La gente ci chiede: quanto pensate di durare? E chi lo sa, uno può anche fare il presuntuoso e dire: dureremo 10 anni di sicuro, ma in realtà sa benissimo che è fortunato se riesce a sopravvivere 3 mesi. Close your eyes and era la voce di John Lennon, che l'8 dicembre dell'80 è stato assassinato a New York. Dopo il GR, a cura di Marina Milone, raccontiamo la storia di questa band leggendaria che in pochissimi anni ha cambiato il mondo della musica. È la storia dei Beatles.